Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentrovati alla prima puntata di Il bene di tutti, parliamone. Sono Andrea Canton e avrò il piacere in queste settimane di accompagnarvi in questo spazio di riflessione. Insieme cercheremo di affrontare vari argomenti legati al bene comune e a capire cosa la Chiesa e cosa l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, che affronteremo e comprenderemo insieme più tardi, fa per questi argomenti e fa per promuovere il bene di tutti. Abbiamo sempre sentito parlare di ingerenza della Chiesa nelle grosse tematiche, nelle grosse questioni. Da destra la Chiesa molto spesso viene accusata di essere troppo permissiva nei confronti degli immigrati o delle fasce sociali più deboli, mentre da sinistra la Chiesa viene ripetutamente attaccata per le sue posizioni conservatrici nei campi della vita e della morale sessuale. Eppure in questo campo non c'è nessuna novità, in quanto il diritto di parola della Chiesa nei secoli è stato limitato e ampliato a seguito di grossissime battaglie e a grossissime polemiche. Adesso ascolteremo uno stralcio della lettera di Ogneto, una testimonianza della Chiesa primordiale a pochi decenni dalla predicazione di Cristo, sullo stato dei cristiani all'interno della società dell'epoca. Dalla lettera di Ogneto anonimo. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una dimora mortale. Anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi e nelle bevande, l'anima si raffina. Anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si moltiplicano. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Abbiamo con noi Don Marco Cagol, delegato della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Salve. Salve a tutti. Allora, abbiamo ascoltato questo brano, che cosa ci dice? Ma questo è un brano bellissimo che ha sempre ispirato la presenza dei cristiani nel mondo. Cerca di delinearci un po' la relazione che c'è tra i cristiani e il mondo. I cristiani nei secoli sono sempre stati un po', diciamo così, considerati a volte parte integrante del tessuto sociale, a volte dei corpi estranei. Ma ecco, facendo riferimento a questo testo, noi possiamo vedere proprio qual è il loro specifico. Ecco, sicuramente non si può dire che sono una presenza inutile o una presenza che fa del male al mondo, ma così ambiscono, desiderano essere una presenza positiva, una presenza costruttiva, una presenza che tra l'altro corrisponde esattamente alle parole del Vangelo, cioè lievito nel mondo. Certo, i cristiani condividono poi anche tutte le difficoltà, tutte le cose normali della vita del mondo e a volte producono anche delle controtestimonianze, però ecco, questo brano ne delinea un po' un ideale, ecco, di presenza. Si parla spesso di dottrina sociale della Chiesa nei riguardi della presenza cristiana nella società, nel loro impegno e nel loro anche diritto di parola. Ma che cos'è la dottrina sociale della Chiesa e che ruolo ricopre all'interno dell'insegnamento di questa? Io direi così, la dottrina sociale della Chiesa, al di là del nome che può anche lasciare un po' perplessi, no? Perché quando si parla di dottrina, ecco, si suscitano sempre delle reazioni un po' strane, però la dottrina sociale è quel tentativo che hanno fatto nei secoli i cristiani di leggere la realtà sociale, la realtà del mondo attraverso la lente, diciamo così, del Vangelo, cioè come leggere la realtà sociale, economica e politica, che criteri avere, che valutazioni dare, come anche in qualche modo fare le scelte di costruzione della società a partire dai criteri evangelici, cioè dalla parola del Signore. Ecco, questo è un po' il senso in generale così della dottrina sociale della Chiesa. È proprio una lunga riflessione dei cristiani che vivendo nel mondo si sono poste tante domande su come stare nel mondo, su come costruire nel mondo giustizia e pace. Quella giustizia e quella pace che avranno stabile dimora nei cieli nuovi e nella terra nuova, ma che proprio grazie anche al Vangelo possono essere anticipate in questa terra, in questo mondo. Quindi direi una grande riflessione, ecco, dettata dalla solidarietà dei cristiani con il mondo e dall'amore, dalla carità. Direi che l'ispirazione fondamentale della dottrina sociale della Chiesa è proprio l'amore, la carità, il comandamento dell'amore. Potremmo dire così, è un grande atto di amore per il mondo la dottrina sociale della Chiesa da parte dei cristiani. Grazie Don Marco, adesso ci fermiamo per qualche istante e ci ritroveremo fra qualche minuto. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Eccoci di nuovo insieme alla prima puntata di Il bene di tutti parliamone e siamo qui con Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova. Stavamo parlando di dottrina sociale della Chiesa. Don Marco, tornando al tema dell'ingerenza, quando la Chiesa va oltre i temi della fede e parla di questioni come economia, vita sociale e politica, in qualche modo non va oltre i suoi paletti naturali, la Chiesa in questi campi ha diritto di parola? Diciamo che la categoria di diritto o dovere di parola può essere anche un po' stretta. Cioè, il cristianesimo non è una fede, una religione che ha, diciamo così, esclusivamente una dimensione individuale, personale, e che riguarda esclusivamente la relazione di Dio, dell'uomo con Dio, avulso dalla sua storia. Il cristianesimo Dio che si fa uomo, che si incarna, che vive nella storia, e dunque la Chiesa, che è il prolungamento della vicenda di Cristo, non può non interagire con il mondo, non può non ambire anche con la sua presenza, con la sua testimonianza, con la carità che la anima, di trasformare, vorrei quasi dire di trasfigurare il mondo. Allora, in questo senso, se la Chiesa è fedele al suo fondatore e al Vangelo, non può non dire le cose su tutto ciò che riguarda l'uomo, perché Cristo è venuto a salvare l'uomo in tutte le sue dimensioni, tra cui c'è anche la dimensione sociale, e dunque la Chiesa tradirebbe, diciamo così, la sua essenza se non si occupasse di tutte le dimensioni, di tutte queste dimensioni, anche di quella sociale, e non proponesse dei criteri, dei principi, delle riflessioni, anche delle motivazioni per agire. Quindi, se vogliamo metterla tra diritto e dovere, diciamo che è un dovere di fedeltà al suo fondatore, ma anche un dovere per l'amore che ha per il mondo, per la realtà. Eppure, se gli insegnamenti della dottrina sociale venissero applicati solo dai cristiani, questa verrebbe in qualche modo a mancare, in quanto i cristiani nel mondo sono 2 miliardi, i cattolici poco più di 1 miliardo. La Chiesa, con la sua dottrina sociale, si rivolge solo ai cristiani? Ma evidentemente in primo luogo si rivolge ai cristiani, che come lievito dovrebbero trasfigurare e trasformare la società e contribuire alla costruzione di una società buona, di una società di giustizia e di pace. Però ecco, ciò che è contenuto nella dottrina sociale della Chiesa è qualcosa di, a me piace usare questa parola, di ragionevole, cioè è comprensibile dalla ragione. Molti delle affermazioni, dei valori sono ragionevoli, sono fattori comprensibili alla ragione umana. Allora, in questo senso, la Chiesa, perlomeno diciamo così, da Giovanni XXIII, quando esprime la dottrina sociale, le sue encicliche sociali, si rivolge esplicitamente agli uomini di buona volontà, e di fatto molte delle considerazioni contenute nella dottrina sociale della Chiesa sono condivise anche da chi non approda all'atto esplicito della fede, ma però ne condivide, diciamo così, l'impianto, ne condivide quell'umanesimo che vi è contenuto, ecco. Questo proprio perché la fede cristiana è una fede che comunque coinvolge in pieno la ragione, come ci dice sempre anche Benedetto XVI, e dunque è condivisibile anche con tanti uomini nelle sue implicazioni sociali, umane, antropologiche. La dottrina sociale della Chiesa ha come corpus, quindi come documenti fondanti, alcune encicliche della Chiesa, però alcune encicliche fatte da grandi pontefici. Però nel 2004 è uscito un compendio che tenta in qualche modo di riassumerli. Sì, beh, direi che questo strumento del compendio è uno strumento veramente straordinario. Giovanni Paolo II nel 2004 volle che fosse fornito, ecco, questo strumento che ha varie caratteristiche. Come dicevi, la dottrina sociale della Chiesa si sviluppa in tanti documenti, anche, diciamo così, storicamente condizionati per tanti aspetti. Il compendio tenta di ordinare tutte le materie contenute nelle encicliche sociali dal 1891 in avanti, di ordinarlo per materie, per ambiti, ed è uno strumento anche molto facilmente consultabile da chiunque. Io dico sempre, ecco, un cristiano, diciamo, mediamente informato e che volesse, ecco, essere consapevole di ciò che la sua fede rappresenta anche nei risvolti sociali, ecco, non dovrebbe così prenderlo sempre in mano il compendio, averlo tra i suoi libri, ecco, più cari, anche perché è uno strumento di facilissima consultazione, con degli indici molto agevoli per poter vedere le varie tematiche, e nella sua prima parte ha anche, diciamo così, una fondazione teologica della dottrina sociale della Chiesa, ne descrive la storia e poi anche ne dice un po' la natura, quelle cose che ho tentato di dire prima io, ecco. Quindi sicuramente è uno strumento molto prezioso. Ringraziamo Don Marco Cagol. Grazie a voi. Lo rincontreremo la settimana prossima per una nuova puntata del Bene di Tutti, Parliamone. Dopo alcune prime puntate introduttive nelle quali affronteremo la dottrina sociale della Chiesa, cos'è e cosa vuole dirci, affronteremo anche molti temi sociali del lavoro, della politica, dell'economia, alla luce degli insegnamenti della Chiesa, ma soprattutto alla luce dei suggerimenti della dottrina sociale, vedendo cosa potremmo migliorare se l'applicassimo e cosa ha da dire all'uomo del 2012. E a risentirci la settimana prossima. Il Bene di Tutti, Parliamone, rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.